Italia in controluce. Narrare storie di cronaca italiana. Questo è Italia in controluce, il programma coordinato e condotto da Daniele Biacchessi. A Italia in controluce parla per la prima volta Renato Valanzasca, il bel René, il bandito degli anni 70. Dunque, Valanzasca è stato accusato di omicidi, estorsioni, rapine, sequestri, soprattutto negli anni 70, 4 ergastoli e 260 anni di reclusione. Da marzo Valanzasca gode di un permesso in base all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, gli permette di uscire dal carcere per recarsi al lavoro. Ogni sera però poi deve rientrare nella sua cella all'interno del penitenziario di Bollate. Recentemente non ha potuto ottenere la libertà condizionale per una multa da 3.000 euro mai pagata. L'ha intervistato Paola Ceretti. C'è chi nasce per fare lo sbirro, chi lo scienziato, chi per diventare Madre Teresa di Calcutta. Io sono nato ladro. Si riconosce ancora in queste parole? Diciamo, globalmente, visto che le ho dette io, non posso disconoscerle. Anche se non posso far meno di riconoscere che sono passati anni, inevitabilmente la gente cambia, Valanzasca non fa eccezione e quindi sarebbero magari da rivedere e magari corrette. Voglio dire, io se mi sono sempre assunto in toto la responsabilità, ad esempio, deresponsabilizzando chiunque altro della mia famiglia. Oggi come oggi, probabilmente, e non lo faccio per scagionarmi o per togliermi qualche peso dalla coscienza, dico che l'ambiente familiare, i rapporti interpersonali che corrono con questo nucleo, con questa piccola tribù, finiscono bene o male per incidere su quelli che sono i comportamenti di una persona. In che misura non lo posso dire, però so che molto probabilmente, segnano forse molto, probabilmente la storia sarebbe tutta da riscrivere. Cosa significa essere un bandito? Essere un bandito vuol dire essere un uomo che ha delle regole e dei principi molto ferrei, molto più ferrei di quelli che possono essere i principi di una persona normale, una persona onesta, perché mentre la persona onesta, quando viene meno a uno di questi principi, al limite può rischiare una brutta figura, un malavitoso della mia epoca rischiava il disonore e in alcuni casi poteva rischiare addirittura la vita. Quali sono le regole della mala? Ci sono delle regole scritte e non scritte, diciamo ce ne sono alcune che sono molto semplici, sono basilari, sul lavoro, sulla parte in questura, il che vorrebbe dire comportarsi in modo irreprensibile, quindi fare il proprio lavoro con dovizia, senza strafare, seguendo i dettami che dovrebbero portare a far conseguire meno danni possibili. Sulla parte bisogna dividere equamente il bottino senza tentare in alcun modo di fare i furbi volendosene appropriare di una parte che non è proprio. In questura, perché uno nel caso dovesse avere la sfortuna di essere arrestato, indipendentemente da quelle che possono essere le prove a carico, deve avere la forza di mantenere la negativa o comunque di non inguaiare nessun altro all'infuori di se stesso. Oltre al codice della mala, lei ne aveva uno personale. Non insidiare mai in nessuna situazione, in nessun caso, la donna di un altro pregiudicato, un altro ragazzo di vita. Di avere il culto dell'amicizia come l'ho sempre avuto io e che negli anni, nonostante le tante fregature che ho subito, ancora mantengo, perché da un amico dipende anche la mia vita e la vita degli altri e quindi deve essere una persona da tenere in altissima considerazione. Personalmente mi sono imposto di non sparare mai per primo ed è una regola che ho mantenuto fino in fondo e ancor più di non sparare mai alla schiena di chi che sia, nemico o sbirro. Se uno porta una pistola in tasca, prima o poi la usa. Cosa significa? Ho visto per esperienza, e non parlo di esperienza personale, ma di aver visto troppi ragazzi che portavano una pistola per, non dico per gioco, ma solamente per sentirsi più forti, sentirsi più grandi, e alla fine inevitabilmente sono arrivati ad usarla, spesso e volentieri fortunatamente senza fare grossi danni, in qualche caso facendo dei danni irrimediabili. Lei nasce a Lambrate e cresce a Giambellino. Da dove arriva il mito della banda della Comasina, visto che lei era considerato il re della Comasina? Era un po' un re operaio perché lavoravo solo io, però effettivamente come capobanda era quello che faceva un po' capobanda tutto fare. In ogni caso, perché della Comasina? Io è vero, sono nato a Lambrate, non mi sento vicino a Lambrate, mi sento molto più vicino al Giambellino, perché Lambrate era un posto di, oggi si direbbe di froccetti, non c'erano dei veri ladri, tantomeno delinquenti. Giambellino invece era molto più simile alla mia pelle. La Comasina è stata una casualità, cioè io mi sono sono trovato insieme, a parte due o tre che non erano della Comasina, o comunque Affori, Bruzzano, Niguarda, cioè tutta quella fetta di Milano, erano la stragrande maggioranza dei miei, diciamo, amici di quella zona, e quindi la Comasina era il quartiere predominante, quindi da lì la banda della Comasina. Nella sua infanzia al Giambellino c'è una figura molto importante, suo fratellastro Ennio. È stato il mio idolo, è stato la persona che avrei voluto essere, era uno che non aveva paura di niente, di nessuno, non mi ha mai trattato come un ragazzino, ma mi trattava da uomo a uomo, e diciamo che questa era la sua forza. Quindi vederlo orgoglioso di me mi dava una gratificazione che non aveva pari. Suo fratello Ennio muore suicida. Dopo un paio d'ore che mi aveva lasciato, l'ho trovato morto, ho visto che aveva un sacco di fogli scritti a mano. Quando ho trovato quello che era indirizzato a me, al mio amato fratellino Renato, mi sono preso quello che ritenevo che fosse giusto che rimanesse mio, poi ho preso un bossolo dell'arma esplosa, ho messo tutto in un fazzolettino che lui portava nel taschino della giacca e me ne sono tornato a casa. Qual è la cosa più vera e la cosa più falsa che hanno detto i media su di lei? Penso che la famiglia dei Pennivendoli abbia contribuito, aiutati da me che gli ho dato una bella mano, a creare un personaggio che alla lunga è diventato il mito del male, del peccato. Non l'ho fatto con premeditazione, mi divertivo, mi piaceva, era un modo trasgressivo per passare il tempo. La cosa più falsa sono due. C'è stato qualche giornalista a un certo punto che è saltato fuori che io potessi in qualche modo centrare con la morte di Francis Tuartello, cosa che non sopporto nemmeno ripetermela da solo, e il fatto che io fossi un drogato. Perché non è mai scappato all'estero? Non è vero che non sia mai andato all'estero, nel senso che ho tentato, dopo parecchie insistenze di qualche amico di destra, che mi consigliavano il Cile. Peraltro c'era un regime che non si confaceva con il mio carattere, cioè che i militari facevano i militari, e quindi se avevano a che fare con i civili non ci mettevano né uno né due né rompigli le ossa, perché ho assistito, quindi ero in macchina con questo colonnello, ho visto cose, ho visto picchiare dei bambini perché qui chiedevano solamente da mangiare. Era il periodo della Manuela Trapani, mi sono allontanato dall'ovile per 5 giorni, la cosa non ha avuto un fine. Quanto violento è stato il carcere con lei? Il giusto, forse un po' di più, nel senso che io sono sempre stato un gran bel rompicoglioni, spesso e volentieri me l'andavo pure a cercare. La prima edizione di Italia in Controluce termina qui. Radio24.it è il nostro sito e il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, dove potete lasciarci naturalmente le vostre idee, i vostri temi, i vostri suggerimenti. Controluce@radio24.it la nostra mail. La seconda edizione va in onda alle 13.30.